La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end. Un saluto a tutti. Allora, l'argomento della giornata, chi volesse telefonare all'800240024 è un classico, però c'è una novità che adesso vi spiego. Il classico è rappresentato dal fatto che sul totale del gettito IRPEF la stragrande maggioranza, oltre l'80%, viene dai lavoratori a reddito dipendente e dai pensionati. Quattro fatti che sono avvenuti in questi giorni. Primo fatto, a sottolineare con polemica questa percentuale così elevata sul totale dell'IRPEF, è questa volta stato il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri. Primo fatto. Secondo fatto, novità. Questa volta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un sottosegretario, quindi un componente del governo, novità mai vista in tutti questi ultimi anni, prende carta e penna e molto cortesemente spiega la ragione oggettiva, numeri alla mano, cioè significa numeri del gettito alla mano, di quello che il Presidente della Corte dei Conti ha lamentato e che viene sistematicamente lamentato da sindacati e dalla stragrande maggioranza dei cittadini che intervengono quando si tratta di tasse ed evasione fiscale. Fatto numero 3. A questo chiarimento, ripeto, per la prima volta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, reagisce sul Corriere della Sera l'altro ieri l'ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, la cui importanza sul pensiero fiscale e tributario della sinistra è inutile che io vi sottolinei, criticando il sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e come sarebbe a dire? Il presidente della Corte dei Conti ha straordinariamente ragione, l'impegno per la lotta all'evasione, ma che cosa sta succedendo nel governo? Quarto fatto, e fine della mia introduzione, sul Corriere della Sera di oggi trovate anche la cortesissima ma ferma replica anche a Vincenzo Visco del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poiché questo argomento è veramente un tra virgolette classico quando si parla di evasione fiscale e sete tributaria dello Stato, mi è sembrato il minimo sottoporvi in diretta questa novità, e cioè invitare il sottosegretario al MEF, che secondo me con un apprezzabilissimo spirito di precisione tenta di fare chiarezza su questa cosa che scalda, anzi fa arrabbiare milioni di italiani a reddito dipendente e pensionati, ma contribuendo contemporaneamente a gettare una luce oggettiva su una base forse non altrettanto oggettiva di tutta questa polemica. E per questo con noi, collegato al telefono, il sottosegretario Enrico Zanetti. Io molto gliene sono grato, buon pomeriggio, buon Immacolata anche a lei. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, io non ho citato i numeri apposta per consentire a lei di spiegarlo concretamente. Parto semplicemente dal fatto che il Presidente della Corte dei Conti aveva sottolineato come praticamente quasi l'80% dell'IRPEF viene appunto dai dipendenti e dai pensionati, al che lei gli ha replicato con quali argomenti? No, mi è sembrato importante, visto che sostanzialmente in questa relazione non solo si diceva che oltre l'80% del gettito IRPEF arriva da dipendenti e pensionati, ma si poneva anche questo dato a riprova del fatto che il nostro sistema fiscale è completamente sproporzionato nel livello di contribuzione richiesta ai primi rispetto invece a coloro che hanno attività di lavoro autonomo. Mi sembrava importante sottolineargli che nell'istante in cui si dà questo dato, cioè oltre l'80% del gettito IRPEF da lavoratori dipendenti e pensionati, forse era anche il caso di precisare che sul totale dei contribuenti queste categorie rappresentano l'82% dei contribuenti totali, appunto. Quindi da questo punto di vista il dato appare tutt'altro che sperequato, e anche se si va a vedere infatti il dato medio di gettito IRPEF dato dal singolo contribuente ripartito per categorie, quel dato medio ancora una volta ci mostra dei numeri che non sembrano così sperequati, nel senso che il dato medio per un dipendente è un gettito IRPEF di 5.200 euro, per i pensionati 3.700, per gli imprenditori, piccoli imprenditori ovviamente, 4.008 e per gli autonomi addirittura schizza in alto verso i 15.100. Tutti numeri che tra l'altro vanno presi tenendo conto che poi sull'attività di lavoro indipendente si paga pure l'IRAP. Il che naturalmente non vuol dire che non ci sia un problema oggettivo di evasione nel nostro paese e con intensità diversificate a seconda soprattutto delle modalità di prelievo, perché questo va detto, no? C'è, è diversificato, ma attiene alle diverse modalità di prelievo del reddito, non certo a diverse tensioni etiche e categoriali. Io credo che questi numeri sia importante sottolinearli, perché se continuiamo a creare la teoria del conflitto invece che riconoscere la trasversalità del problema dell'evasione e combatterlo con estremo pragmatismo, facendo un patto tra gli onesti delle diverse categorie, perché questo oggi deve essere in grado di fare la politica, coagulare attorno a sé gli onesti delle diverse categorie e non tenerli contrapposti con la logica del conflitto sociale che tanto piace ad alcuni estremisti, ecco, se non facciamo questo noi continueremo a perpetrare un problema, non a risolverlo. Allora, riepilogo i numeri che lei ha messo per iscritto in una lettera al Presidente della Corte dei Conti. Su 41.414.000 contribuenti, quelli che hanno un reddito prevalente da lavoro dipendente e da pensione sono 34.244.000, cioè appunto l'82,7% dei contribuenti. A questo si aggiungono i prevalentemente imprenditori, che sono un altro 4,3%, cioè 1.780.000, gli autonomi, i prevalentemente autonomi, che sono l'1,7%, cioè 718.000, e il pagamento IRPEF medio è per i prevalentemente autonomi 15.110 euro rispetto ai piccoli imprenditori, che sono 4.880. Naturalmente ricordiamo anche, poiché questo ci serve per arrivare poi alla obiezione critica che le è venuta da Visco e alla sua risposta, che quando si parla del dato IRPEF per i microimprenditori e per gli autonomi, si dimentica sempre di dire che per le imprese familiari c'è uno splitting, quindi le tasse si splittano anche tra i componenti familiari nella conduzione aziendale. Questo deve servire a chi è dipendente o pensionato e considera comunque basse queste somme pagate, che sono più elevate ovviamente di quelle dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, ma c'è comunque lo splitting, e in più poi ci sono le altre imposte a carico della società conduzione familiare, che si pagano tutte e che in questo conto del solo IRPEF naturalmente non sono comprese. Giusto o sbagliato? Giustissimo. Ecco. Allora, a questo punto Vincenzo Visco scrive al Corriere che però le sue obiezioni non funzionano, perché significherebbero quasi che si abbassa la guardia nella lotta all'evasione. Considerazione aggiuntiva che fa l'ex ministro Visco, ma che non ha nulla a che vedere con il tipo di impostazione del mio ragionamento, che anzi è assolutamente un ragionamento finalizzato a rendere più efficiente la lotta all'evasione, ma questa efficienza passa proprio attraverso, come dicevo prima, la consapevolezza della trasversalità del fenomeno e la consapevolezza della necessità che non si deve continuare a fare la corsa sui conflitti sociali per grattare la pancia ai propri elettorati di riferimento. Bisogna unire attorno a sé, la politica deve essere in grado di unire attorno a sé gli onesti di una parte e dell'altra che hanno voglia di cambiare il paese rispetto ai problemi devastanti dell'evasione del settore privato e della corruzione del settore pubblico. Non si può continuare ad avere una politica che a seconda appunto degli elettorati di riferimento, tra l'altro mi permetto di dire presunti elettorati di riferimento, perché qua forse gli ex ministri non si accorgono che non va più a votare quasi nessuno, proprio per questo tipo di modo di fare politica. Esatto. Non si può continuare ad avere che alcuni dicono che nella pubblica amministrazione sono tutti fannulloni e si cerca di fare le riforme sulla pelle dei lavoratori dipendenti anziché insieme a quei lavoratori dipendenti che sono i primi ad aver voglia di cambiare il sistema, e poi invece dall'altra parte dire tutta la colpa dell'evasione ce li hanno autonomi imprenditori e giù a dargli bastonate e mazzate, oppure se si è dall'altra parte a regalargli condoni. Questo è il cambiamento di passo che bisogna dare. Io sono entrato in questo governo con grandissima convinzione proprio perché penso che noi dobbiamo cambiare alcuni paradigmi del passato, e francamente per quanto riguarda la parte fiscale cambiare i paradigmi del passato significa senz'altro ascoltare tante voci nuove e innovative che ci sono e che possono dare molto, e ascoltare un po' meno voci che hanno già dato talmente tanto che forse è anche il caso che si riposino un po'. Allora, su questo argomento, in questo paese non esistono categorie che ne mantengono alta, stiamo parlando dell'IRPEF dal punto di vista fiscale, cerchiamo di non cadere nella trappola di chi ci dice che la colpa è sempre degli altri rispetto a noi, e ce lo dice dall'alto magari, impostando la politica fiscale. A me sembra una grande novità, non piccola, veramente grande, perché in tanti anni di questo mestiere il luogo comune quando si parla di lotta all'evasione e di riforme fiscali è sempre quello di sentirsi dire: ma tanto si sa chi non le paga, cioè gli autonomi, i commercianti, i piccoli imprenditori, l'argomento è poi loro scaricano tutto a noi no, eccetera eccetera. Allora, questa impostazione al MEF, ripeto, non in un dibattito, per me è una cosa che significa che c'è una buona premessa per articolare un'impostazione, se bene seguita, ovviamente sto parlando di Enrico Zanetti, poi ovviamente vedremo che cosa fa il governo, ma intanto è un cambio di criterio per leggere i dati e per leggere il fatto che non c'è il giusto da una parte e lo sbagliato dall'altra, considerando i milioni di contribuenti italiani. È pieno di gente che non ce la fa più, questo è vero, da una parte come dall'altra, cioè non significa né sottovalutare i milioni di italiani che hanno pensioni ridicole e che hanno perso il reddito in questi anni, ma non credere che non ci siano altrettanto vittime e altrettante condizioni di stress pauroso tra i lavoratori autonomi e i commercianti nelle microimprese, tanto per iniziare. Sergio da Varese, prego Sergio. Sì, volevo dire due cose, la prima potrebbe sembrare un po' polemica, la seconda invece va nel merito. La prima polemica è: perché tutti i sottosegretari o limitrofi non aprono partita IVA? Perché secondo me questa cosa risolverà tantissimi problemi. Cioè lei dice se fanno l'esperienza diretta? Certo, ecco. Certo, mettiamoli sul campo e poi dopo confrontiamoci col campo, non con le idee, filosofie, farfalle ma vedendo cosa vuol dire appunto avere una partita io. E questa è la sua prima osservazione, vedrà che su questo con Zanetti parliamo di quando c'è una fetta di salame, quella roba lì è una fetta di salame, quando c'è un pezzo di pane, un pezzo di pane, quando c'è Marx o altri, e Marx o altri. Perfetto, okay. Per questo è la sua prima osservazione, fate l'esperienza sul campo così aprite gli occhi. La seconda? Faccio un esempio molto concreto, io ho un contratto a tempo indeterminato all'interno di una fondazione che funziona secondo me abbastanza bene. I miei colleghi che non hanno partita IVA si ammalano molto di più dei miei colleghi che hanno partita IVA, e i miei colleghi che hanno partita IVA riescono a fare delle cose molto più belle di quelli miei come me che non hanno partita IVA. Ok? Chiuso. Cioè, in termini di risultato, Sergio, naturalmente allora, sa che se io fossi ministro del lavoro obbligherei, se io fossi ministro della salute obbligherei tutti a aprire la partita IVA perché non ci si ammala. Ok. Sergio, stai facendo delle osservazioni che io condivido, ohimè, anch'io ho una partita IVA, però sono abrasive sul popolo dei lavoratori dipendenti e sui sindacati, sono abrasive. Adesso io giro la tua osservazione Enrico Zanetti, tieni conto che Enrico Zanetti anche in questo, per me, almeno ai miei occhi, senza voler convincere nessuno, è un'anomalia positiva, perché viene appunto dalla vita professionale e non dalla politica di professione. Che dice Enrico Zanetti di questa nostra osservazione dell'ascoltatore? Ma Oddio, per quanto riguarda il discorso della partita IVA, io a dire il vero per diventare sottosegretario l'ho dovuta chiudere, perché giustamente per le regole antitrust non devi fare attività professionale mentre sei al governo, e ci mancherebbe, ma io l'ho sempre avuta aperta, sono un dottore commercialista, ho sempre avuto il mio studio di buon livello, ma estremamente piccolo, con tutte le difficoltà che caratterizzano le partite IVA, e però sia chiaro, non sono qui a fare il sindacalista delle partite IVA, non mi piace neanche francamente le esasperazioni nei confronti del lavoro dipendente, posto che ribadisco qui non c'è nessuno che mantiene nessuno, e ovviamente nell'istante in cui però ci sono interventi come quello che è stato fatto dall'ex vice ministro Visco, che a mio avviso sono intrisi di un'ideologia veramente di un'altra epoca, sono il primo naturalmente a dire quello che penso, non voglio però neanche cadere nel come dire nell'estremismo opposto. Qui dobbiamo capire che o ci mettiamo insieme tra persone oneste, di buona volontà e con la volontà di questo paese, dell'una e dell'altra parte, oppure se continuiamo a correre dietro agli opposti estremismi tra chi dice che solo il mondo delle partite IVA tira avanti questo paese e gli altri sono dei parassiti, e chi dice che soltanto il mondo dei dipendenti e pensionati paga le tasse e gli altri sono degli evasori, non ne andiamo da nessuna parte, e soprattutto facciamo il gioco di quelle parti politiche più estreme che ci hanno portato volontariamente in un cul-de-sac. Sentiamo ancora Augusto da Verona, prego Augusto. Ah, buonasera, senta, io volevo intervenire dicendo che trovo, io sono avanti con l'età e quindi ho una misera pensione disputata dal governo Amato del 50%, e volevo dire che i pensionati non dovrebbero pagare fino a un certo limite neanche una lira di tasse, perché essendo stato fatto il calcolo all'origine sul lordo hanno già pagato quello che hanno depositato, e quindi avrebbero diritto a un riscontro percentuale come un versamento bancario. Augusto, la tua obiezione in principio è giusta, in principio, ma il nostro ordinamento, come sai, non funziona così. Il nostro ordinamento, per esempio, tassa il risparmio, che messo da parte è stato già tassato sui redditi, e adesso lo tassa anche sulla giacenza. Quindi qui ci sarebbe da discutere. Che dice il sottosegretario Zanetti di questa provocazione di Augusto? Innanzitutto che i contributi negli stati in cui vengono versati, la parte a carico del lavoratore, sono deducibili dal reddito e quindi non vengono tassati nella misura in cui vengono accantonati, ed è tutto logico che vengano invece tassati nella misura in cui poi vengono erogati. Se poi vogliamo fare i precisini sui contesi delle pensioni, mi verrebbe da dire che non conviene, perché allora fare i precisini bisognerebbe andare anche retroattivamente con il metodo contributivo. Bravo. Per tutti, e molti avrebbero di che perderci. Quindi fermo restando che c'è da essere molto attenti nei confronti dei tanti pensionati con una pensione troppo bassa, però ricordiamoci che il futuro rischia di essere ancora più esatto. Bajo per i giovani di oggi rispetto a chi ha avuto belle pensioni retributive. Bravo Enrico Zanetti anche su questo, io lo ringrazio e lo invito a tener duro con questo spirito di equilibrio, non gli uni contro gli altri, non ce n'è davvero bisogno, grazie a lui. Continuate con Radio 24, appuntamento a domani.